Torre, giornale radio del Friuli Venezia Giulia. Recuperata nella notte la coppia di alpinisti rimasti per ore bloccati in parete sulla cima piccola della Scala nel gruppo di Rio Bianco delle Alpi Giulie, a operare squadre del soccorso alpino regionale della Guardia di Finanza. A Trieste da 2 settimane uno studentato privato da 350 posti è senza acqua a causa di legionella nelle tubature. In Italia solo una mamma su 2 lavora, dato molto al di sotto della media europea. La regione Friuli Venezia Giulia ogni anno finanzia con 100 milioni di euro servizi per il welfare familiare, ma le differenze con l'estero permangono. L'inflazione rallenta sia a Trieste sia a Udine, anzi nel capoluogo friulano, e per il secondo mese di fila il costo della vita su base mensile risulta complessivamente in calo. Dalla collaborazione fra Generali e Università di Trieste nasce una nuova figura professionale per la valutazione di eventi legati alla correlazione tra cambiamenti climatici e mercati finanziari. Firmato a Pordenone un accordo che promuove sinergie operative fra il Consorzio Ponte Rosso e le società del territorio che operano nel settore dell'energia, dei rifiuti e dell'acqua per ottimizzare i servizi. Prime prove per il laboratorio di innovazione urbana Udine Retail, che coinvolge marchi commerciali, investitori, proprietari di spazi sfitti, oltre al Comune di Udine, la Camera di Commercio di Pordenone Udine e Confcommercio Udine, in un incontro finalizzato alla rigenerazione del commercio urbano. A Grado è stato presentato il progetto del nuovo allestimento del Museo Nazionale di Archeologia dell'Alto Adriatico, un lavoro che avrà al centro la Iulia Felix, il relitto di epoca romana ritrovato nel 1986. Nelle acque di Grado. Un riconoscimento alla voce delle masse dimenticate dalla storia andrà allo scrittore spagnolo Ildefonso Falcones, il premio La storia in un romanzo di Pordenone Legge, la consegna sabato 20 settembre. Le 12:32 minuti, questi titoli. Ancora un buongiorno da Giorgio Berzi e Maria Spezia a condurre questa seconda edizione del giornale radio del Friuli Venezia Giulia di lunedì 16 giugno, edizione che apriamo ancora con la cronaca, perché è stata salvata nella notte la cordata di alpinisti in difficoltà durante la calata in corda doppia sulle Alpi Giulie. E come fa a sapere il soccorso alpino e speleologico del Friuli Venezia Giulia, la cordata formata da 2 persone, un uomo e una donna, è stata raggiunta in parete intorno all'1:40 ed è stata poi calata a terra verso le 2:40. I soccorritori hanno deciso di scendere a valle a piedi lungo il sentiero e alle 4 circa erano all'auto parcheggiata in strada. Dopo aver accompagnato i 2 alpinisti alla propria vettura, le cui condizioni di salute erano buone, l'intervento si è concluso alle 5. Ancora cronaca questa mattina, poco dopo le 5:30, un camion frigo di un'azienda polacca che viaggiava sull'autostrada A23 in direzione Tarvisio, nel tratto tra Palmanova e Udine Sud, per caso in accertamento è uscito di strada sfondando la recinzione e terminando la corsa in un vigneto, senza però ribaltarsi. L'autista del mezzo è stato trasportato con un'ambulanza all'ospedale di Udine. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Udine. E i vigili del fuoco di Gorizia, invece, sono intervenuti questa mattina poco dopo le 8:30 per spegnere un incendio di materiale abbandonato al piano terra del vecchio ospedale di via Vittorio Veneto. L'allarme era stato lanciato da un passante, l'intervento si è esaurito in breve tempo senza che venissero registrati dei feriti. Ultima pagina, sospesa la retta dal 29 maggio fino alla soluzione del problema e colazione e cena gratis a tutti gli studenti. Questa è la soluzione trovata dalla proprietà dello studentato privato di Trieste, che da 2 settimane è rimasto senza acqua per la presenza di legionella rinvenuta nelle tubature idriche. 20 bagni, 15 docce e una ventina di spogliatoi divisi tra maschi e femmine allestiti al piano terra all'esterno. È la soluzione tampone trovata da circa una settimana dal Campus X, studentato privato da 290 posti letto di via Giulia a Trieste, che dallo scorso 29 maggio è rimasto senza acqua a causa di caso di legionella trovato nelle tubature di un impianto di fatto nuovo di zecca, visto che la struttura è stata inaugurata lo scorso settembre. Studenti ovviamente in sofferenza hanno scritto alla nostra redazione denunciando la situazione. Noi siamo qui con il direttore della struttura, Lorenzo Vidoni. Tutto è iniziato il 29 maggio. Siete stati contattati da Sugi perché? Siamo stati contattati da Sugi a fronte di un caso appunto di legionella e abbiamo attivato subito la nostra unità di crisi. In tempi record siamo riusciti a coinvolgere aziende certificate che appunto stanno ancora lavorando per far sì che tutto torni alla normalità prima possibile. Nel frattempo a questi ragazzi che cosa offrite? Di fatto avete allestito, abbiamo detto, un punto dove si possono lavare perché l'acqua non si può usare. Per quanto riguarda il pranzo, la cena, la colazione, cosa succede? Esatto, abbiamo ovviamente sospeso, perché capiamo il grosso disagio di cui siamo anche noi vittime, abbiamo sospeso completamente il canone di locazione. Stiamo dando acqua potabile e pasti durante il giorno per alleviare un po' questo disagio di cui siamo, continuo a dire, purtroppo vittime noi stessi. E secondo lei la soluzione quando si risolverà? Siamo purtroppo costretti ad aspettare tempistiche dettate dai campionamenti, e quindi io immagino che in una o due settimane dovremmo tornare alla normalità finalmente. Trieste, Anna Vitaliani, TGR Friuli Venezia Giulia. È uscito il 10° rapporto di Save the Children, che quest'anno mette al centro le mamme lavoratrici, ancora senza un'adeguata rete sociale di sostegno, e in particolare le mamme single, definite equilibriste tra le equilibriste. In Italia solo una mamma su due lavora, siamo molto sotto la media europea e investiamo meno che all'estero sulle politiche di sostegno alla famiglia. La regione Friuli Venezia Giulia spende ogni anno 100 milioni di euro, principalmente per l'abbattimento delle rette dei nidi e per la dote famiglia, cioè contributi per babysitter, centri estivi e simili. Ma resta il problema dei pochi posti nei nidi, e poi gli orari di apertura non si conciliano con quelli del lavoro. Maria Pia Turinetti, Direzione Centrale Lavoro e Famiglia della Regione Friuli Venezia Giulia. Stiamo lavorando a un incremento del numero dei posti disponibili, perché abbiamo già in cantiere più di 1200 posti che saranno messi a disposizione nel prossimo futuro. Per quanto riguarda gli orari, qui stiamo lavorando su più fronti. Allora, da un lato un incremento dell'offerta di doposcuola del privato sociale, del terzo settore. Dall'altro stiamo lavorando, diciamo, a una nuova linea progettuale che insieme con i comuni e le istituzioni scolastiche estenda servizi di pre e post accoglienza. Siamo l'ottava regione d'Italia nella classifica annuale stilata da Save the Children, il cui rapporto quest'anno si concentra sulle equilibriste, cioè le mamme lavoratrici e in particolare le mamme single lavoratrici equilibriste alla seconda. Antonella Inverno, responsabile ricerca e dati di Save the Children Italia, una delle più grandi organizzazioni internazionali per la tutela dei minorenni. Abbiamo quest'anno, ma ci sono state molte variazioni anche negli altri territori, un peggioramento del Friuli Venezia Giulia nell'area della soddisfazione delle donne per il proprio tempo libero e per il proprio lavoro, che viene indicatore che viene rilevato dall'Istat nel benessere economico. Trieste, Francesca Terranova, TGR Friuli Venezia Giulia. I temi del lavoro. La Federazione di Industria, Commercio e Artigianato del Sindacato Autonomo Fesica Confsal del Friuli Venezia Giulia è intenzionata a ricorrere non solo a manifestazioni pubbliche, ma anche a denunce presso il Tribunale del Lavoro e a esposti presso la Procura per il reato di caporalato, che coinvolgeranno stazioni appaltanti pubbliche. L'iniziativa, presentata in conferenza stampa nella sede triestina di Via Paisiello, riguarda la situazione dei contratti della vigilanza privata, in particolare per i servizi fiduciari, cioè quelli svolti da guardie senza porto d'arma. Per loro il sindacato da anni scoraggia il ricorso al contratto Fesica Consal, sia perché non rinnovato da 15 anni, sia perché prevede una retribuzione di 1.100 euro circa ed è quindi inadempiente all'articolo 36 della Costituzione, che sancisce il diritto a una retribuzione proporzionata a quantità e qualità del lavoro. A detta di Fesica Consal, questo contratto è tuttora applicato per una novantina di lavoratori di Asugi e Asuf. Passiamo all'economia. Sono stati diffusi poco fa i dati sui prezzi al consumo relativi al mese di maggio. Sentiamo cosa è emerso. L'inflazione rallenta sia a Trieste sia a Udine, anzi nel capoluogo friulano, e per il secondo mese di fila il costo della vita su base mensile risulta complessivamente in calo. In dettaglio, a Trieste l'inflazione calcolata mese per mese passa dallo 0,2 allo 0,1%, a Udine l'inflazione va da meno 0,1 a meno 0,2. Il tasso tendenziale annuo, cioè l'aumento di prezzi rispetto al 2024, scende all'1,9% a Trieste e all'1,6% a Udine, qui con un calo di mezzo punto percentuale. Esaminando i dati degli uffici statistica, il rallentamento di Trieste è legato soprattutto al calo dei costi per i trasporti, meno 1,4 su base mensile, e per l'abitazione e le bollette, meno 1,2. Voci che sono influenzate da dinamiche nazionali, l'andamento del prezzo del petrolio ad esempio, e che quindi risultano in calo anche a Udine rispettivamente dell'1,7 e dell'1%. Prezzi in leggero aumento rispetto al mese precedente invece per quanto riguarda il carrello della spesa. La voce alimentari e bevande analcoliche fa segnare più 1,2% a Trieste e più 0,2% a Udine. Andrea Vardanega, TGR Friuli Venezia Giulia. Approfondisce la questione della sostenibilità come fattore strategico capace di generare vantaggi competitivi per le imprese il convegno dal titolo Costruire valore sostenibile, la spinta degli ESG per la competitività d'impresa, dove per ESG si intende l'acronimo inglese per ambiente, sociale e governance. L'appuntamento è organizzato da Confindustria Udine in calendario nella sede della Torre di Santa Maria alle 17, include interventi sullo scenario macroeconomico, sulla sostenibilità aziendale e sugli strumenti finanziari dedicati a supportare le imprese nell'adozione di strategie orientate proprio ai criteri ESG. È intitolato Confcommercio CER, l'energia che fa rete, l'incontro inteso a illustrare le finalità della prima comunità energetica rinnovabile CER, dedicata al supporto delle imprese del terziario sul versante dei costi energetici e della sostenibilità. Tra i relatori, l'assessore regionale alle attività produttive e turismo Sergio Emidio Bini, quello alla difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile Fabio Scocimarro, il sindaco di Trieste Roberto Di Piazza e il presidente di Confcommercio Friuli Venezia Giulia Gianluca Madriz, con il presidente di Confcommercio Triestina Antonio Paoletti, a Capriva del Friuli a Villa Russiz alle 17. Prime prove per il laboratorio di innovazione urbana Udine Retail, che coinvolge marchi commerciali, investitori, proprietari di spazi sfitti, oltre al comune di Udine, a Camera di Commercio di Pordenone Udine e a Confcommercio Udine. Un incontro finalizzato alla rigenerazione del commercio urbano. Siamo un'agenzia immobiliare. Sto proponendo un bar sfitto in centro Udine. La sala IACE del comune di Udine è trasformata per un giorno in un laboratorio di connessioni economiche ed urbane. Ci sono banchetti di agenzie immobiliari e proprietari, i marchi del commercio, piccoli imprenditori, i consulenti di finanza agevolata. Siamo alla data zero di Udine Retail, un evento sperimentale organizzato per lo più con il passaparola per far incontrare portatori di interesse e far tornare le attività nelle vetrine dove campeggiano le parole vendesi o affittasi. Fabio Passon, vicepresidente di Confcommercio Udine. Questo incontro è un tassello di un accordo di partenariato sulla rigenerazione urbana che abbiamo firmato con il Comune di Udine, con l'Università di Udine e con la Camera di Commercio. Quello che stiamo facendo, oltre a mappare gli immobili sfitti, adesso è cercare di riempire questi spazi. A Udine il 20% degli spazi commerciali risulta sfitto, ma in alcune vie si arriva fino al 50%. Tuttavia, secondo uno studio, la contrazione di attività nell'ultimo decennio è meno accentuata rispetto ad altre città del nord Italia. Io ne ho portati una decina, gran parte sono immobili che non hanno la canna fumaria. La canna fumaria è un elemento abbastanza importante perché nella ristorazione è l'unica cosa che ha un valore aggiunto. Cerchiamo punti e investitori. Un nuovo punto lo apriamo il prossimo mese a Milano e adesso stiamo cercando qua a Udine perché c'è la possibilità di replicare. Un centinaio di operatori presenti a questo primo incontro. La nuova edizione è già in calendario per il 13 ottobre. Si pensa degli spazi fieristici per ospitare ancora più persone. Guido Kaufin, manager del commercio di Udine. La grande iniziativa dell'amministrazione di mettere sul commercio 1,5 milioni ci ha posto nelle condizioni di lavorare in maniera molto molto mirata. Abbiamo voluto, prima di metterci a studiare i bandi che verranno fatti, capire le esigenze che nascevano dal mercato. Udine, Lillo Montalto Monella, TGR Friuli Venezia Giulia. La convention annuale dei friulani nel mondo si terrà a Gorizia il 21 giugno nell'auditorium della cultura friulana. L'iniziativa sarà anticipata da 3 appuntamenti il 20 giugno a Cormons, al centro di valorizzazione e promozione del Coglio. Sarà dato il benvenuto alle delegazioni già presenti sul territorio. Nel pomeriggio a Capriva del Friuli, nella chiesa del Santissimo Nome di Maria, una santa messa sarà officiata dai vicari generali di Gorizia e Udine, accompagnata dal gruppo polifonico caprivese. Le delegazioni si ritroveranno infine a Villa Russizze per l'incontro Gorizia, capitale europea della cultura, anche in cucina e nel vino, a cui seguirà il tradizionale momento conviviale dei presidenti del Fogolars. Creare la nuova figura professionale di esperto in modellistica per la valutazione dei rischi legati al cambiamento climatico e delle correlazioni con il mercato finanziario. E questo l'obiettivo della convenzione che è stata firmata stamane tra Università degli Studi di Trieste, Assicurazioni Generali e una società spin-off dell'Ateneo Giuliano. Formare nuove figure professionali specializzate nella valutazione dei rischi legati al cambiamento climatico e delle correlazioni con il mercato finanziario. A pensarci sarà l'Università di Trieste, che ha inserito il corso all'interno del progetto Fisica dei sistemi complessi clima e finanza all'interno del corso di laurea in fisica, un percorso formativo che è una novità assoluta a livello nazionale. Accanto all'Ateneo ci saranno Generali e Mod Finance, spin-off dell'università e società del gruppo Team System, specializzato nell'analisi finanziaria. Roberto Di Renarda, rettore Università di Trieste. Bisogna essere multidisciplinari, interdisciplinari e saper intercettare quelle che saranno le esigenze dei prossimi anni e dei prossimi decenni. Questo è un esempio virtuoso in cui l'università, il dipartimento e delle aziende private molto forti sul territorio hanno voluto mettere insieme le risorse per investire su una nuova figura che andrà a gestire la complessità. E come tutti noi sappiamo, il mondo va verso la complessità e prepararci a gestirlo sempre meglio è un valore aggiunto. La collaborazione rafforza il legame tra territorio e aziende, ma servirà anche a fare ricerche in un campo in forte espansione. Le compagnie assicurative, infatti, si occupano proprio della copertura dei rischi per catastrofi naturali. In Italia, meno di metà dei sinistri legati al cambiamento climatico sono coperti, meno del 6% delle abitazioni è assicurato contro disastri naturali. Carlo Ferraresi, dirigente ramo rischio Generali. I cambiamenti climatici hanno avuto un impatto rilevante, sempre crescente, parliamo di una crescita tra il 5 e il 7% negli ultimi 10 anni, e l'anno scorso abbiamo avuto nel mondo 318 miliardi di danni dovuti a catastrofi naturali, in crescita rispetto appunto al decennio precedente, e anche attraverso queste nuove figure cerchiamo di intercettare e di capire le relazioni che ci sono tra cambiamento climatico, mercati finanziari. Il corso partirà nel prossimo anno accademico per avere a disposizione sul mercato del lavoro tra qualche anno esperti di modelli per valutare le criticità legate al cambiamento del clima, con focus non solo sull'Italia ma soprattutto sul continente asiatico. Trieste, Andrea Saule, TGR, Friuli Venezia Giulia. 12.47, passiamo al meteo. Il cielo è poco nuvoloso sulla regione. Queste le temperature registrate alle 11. A Trieste 26,5 gradi, con vento da est nord-est, dunque bora a 43 km orari. A Gorizia 28, Udine 28,5 gradi, Pordenone 29, in area montana Tolmezzo 24, Forlì di Sopra 22, Tarvisio 20,5 gradi, Piancavallo e Sappada 19,5 gradi, in quota sul Monte Zoncolan 16 gradi, sul Monte Lussari 14, sulla costa Lignano 28 e a Grado 27,5 gradi. E queste le previsioni a cura dell'ARPA per il Friuli Venezia Giulia. Nel pomeriggio nuvolosità variabile con rovesci e temporali a più riprese. È possibile qualche temporale anche forte sulla costa. Soffierà a tratti vento da nord o nord-est, in genere moderato, con qualche raffica più forte durante i temporali. Temperature massime in calo. Domani si prevede cielo da variabile a poco nuvoloso, con maggiore nuvolosità al mattino su coste e zone orientali. Soffierà bora moderata, anche a tratti sostenuta a Trieste, in calo nel pomeriggio. È stato firmato a Pordenone un accordo che promuove sinergie operative fra il Consorzio Ponte Rosso e le società del territorio che operano nel settore dell'energia, dei rifiuti e dell'acqua, con l'obiettivo di ottimizzare i servizi. Il protocollo apre anche le porte a una futura integrazione di tipo societario. Il presidente di Confindustria Alto Adriatico, Michelangelo Agrusti, ci ha spiegato perché è importante l'iniziativa. Importante perché mette insieme tutte le società di Alto Adriatico, iscritte a Confindustria Alto Adriatico nel territorio che va da Trieste a Pordenone, che lavorano nel settore dell'energia, dei rifiuti, del trattamento dei rifiuti, dell'acqua e del consorzio industriali, delle politiche industriali. Aver messo insieme operativamente tutte queste realtà produrrà dei risultati straordinari per ottimizzare i servizi che rendiamo alle nostre aziende e ai nostri cittadini. Fare massa critica in tutti questi settori, riorganizzare i processi, sarà un lavoro che è già in atto. Tutti gli studi tecnici e gli uffici tecnici di queste istituzioni stanno già lavorando insieme e i risultati si vedranno presto. E potrebbe essere anche il primo passo, diceva, verso un'integrazione di tipo societario? Sì, questo è uno degli obiettivi. Naturalmente nel momento in cui si lavora insieme si trovano anche le condizioni migliori per creare teste uniche, no? Che sono anche modelli di maggiore efficienza e di maggior risparmio. Lara Zani, TGR Friuli Venezia Giulia. Va allo scrittore Ildefonso Falcones la 18ª edizione del premio La storia in un romanzo, riconoscimento nato dalla collaborazione fra Fondazione Pordenone Legge e Link Media Festival di Trieste. La cerimonia di consegna si terrà sabato 20 settembre alle 18 al Teatro Verdi di Pordenone, nell'ambito della rassegna letteraria giunta alla sua 26ª edizione. Il premio era presentato da un tallero d'argento dell'imperatrice Maria Teresa d'Austria, moneta antesignana dell'euro, simbolo di unione e pacifica convivenza tra i popoli. Alla cerimonia seguirà un incontro con il pubblico sui legami fra il romanzo e la storia. È l'occasione per presentare anche il nuovo libro dello scrittore, In guerra e in amore, in uscita domani, martedì 17 giugno, per Longanesi. La salute mentale in Friuli Venezia Giulia, il rilancio necessario, è il titolo del convegno in cui verranno analizzate le migliori pratiche e i rischi a cui è esposto un sistema di cura della salute mentale in cui si ricorre con maggior frequenza ai trattamenti sanitari obbligatori TSO e calano sia le risorse sia le strutture di assistenza. Appuntamento a Trieste, al Teatrino Franca e Franco Basaglia, nel Parco di San Giovanni alle 15.30. Tra i relatori Fabrizio Starace, presidente della Società Italiana di Epidemiologia Psichiatrica, e Roberto Mezzina, vicepresidente Europa della Federazione Mondiale della Salute Mentale. Con loro anche lo psichiatra Giuseppe Dell'Acqua, già collaboratore di Franco Basaglia. Il comune di Basigliano, in collaborazione con la stazione dei Carabinieri di Campo Formido e l'associazione Consumatori Attivi, ha organizzato un ciclo di incontri pubblici intesi ad aiutare i cittadini a riconoscere e prevenire le truffe. Oggi il primo incontro in programma Basigliano, in municipio, alle 18. A Grado è stato presentato il progetto del nuovo allestimento del Museo Nazionale di Archeologia dell'Alto Adriatico, lavoro che avrà al centro la Julia Felix, il relitto di epoca romana ritrovato nel 1986 nelle acque di Grado. La nave sarà ricostruita e visibile ai visitatori, le altre sale racconteranno il contesto. Ne abbiamo parlato con la direttrice del Museo di Aquileia, Marta Novello, che è anche direttore scientifico del progetto museale. Quindi un nuovo allestimento al Museo Nazionale di Archeologia Subacquea a Grado. Quale sarà l'attrazione principale? Beh, naturalmente il protagonista del nuovo allestimento del museo sarà la Julia Felix, l'imbarcazione d'età romana che è stata rinvenuta al largo di Grado e che nel corso degli anni è stata ampiamente studiata e analizzata e che adesso è stata sottoposta a un ulteriore intervento di restauro in vista della sua ricostruzione all'interno del Museo di Grado. Sarà quindi visibile all'interno del museo? Certamente sarà proprio il nucleo del Museo di Grado, dove è stato già realizzato un supporto in acciaio che costituirà la base di partenza per la ricostruzione degli elementi lignei che si sta realizzando proprio in questi giorni. Ci sarà qualcosa che accompagnerà questo manufatto? Il manufatto verrà spiegato all'interno di quello che è il suo contesto storico, economico, commerciale e tutto il racconto che si svolgerà nel nuovo allestimento è funzionale a raccontare il complesso sistema commerciale che interessava durante l'età romana il mare Adriatico, in particolare l'Alto Adriatico, e che aveva il suo cuore, il suo centro nel porto commerciale di Aquileia. Si sa qualcosa sui tempi di questo allestimento? Quando sarà pronto? Beh, l'allestimento è in corso di realizzazione dopo un importante intervento di riqualificazione impiantistica e strutturale dell'edificio. I tempi prevedono una conclusione dei lavori entro la fine dell'anno, quindi siamo molto ottimisti su una conclusione in tempi brevi di questo importante progetto. Grado, Dario Ronzoni, TGR, Friuli Venezia Giulia. Si è concluso a Milano il progetto Un viaggio da fare, che per un mese ha portato a Palazzo Morando la mostra Paesaggi dell'arte in Friuli Venezia Giulia fra storia e contemporaneità, percorso dedicato agli artisti del Novecento di frontiera come Tullio Crali, Marcello Mascherini, Giuseppe Zigaina e Luigi Spazzapan. Per l'occasione il direttore artistico Massimiliano Finazzer Flori ha dialogato con il musicologo Quirino Principe della vicenda e dell'opera dello scrittore e filosofo Carlo Michel Stetter. In questo contesto è stato presentato il film Nel tuo occhio, l'omaggio cinematografico a Michel Stetter, che debutterà il 24 luglio a Gorizia, Palazzo Colonini-Cromberg, nell'ambito del premio Amidei. Un'indagine sulla morte per suicidio di Michel Stetter nel 1910 a 23 anni. Alla presentazione sono intervenuti anche il sindaco di Gorizia, Rodolfo Ziberne, e la modella Ludmilla Voronchina, protagonista del docufilm. Il vescovo di Trieste, Monsignor Enrico Trevisi, interverrà all'inaugurazione dei nuovi spazi espositivi del Museo Diocesano, allestiti al primo piano del seminario. Per l'occasione sarà presentata la mostra di opere di arte sacra, intitolata Il corpo e la gloria, esposizione monografica dell'artista figurativo russo Oleg Supereco, già noto a Trieste per la realizzazione del ciclo pittorico dedicato alla Madre della Riconciliazione nell'omonima cappella. L'artista presenzierà l'evento. Appuntamento a Trieste, al seminario di via Besenghi, alle 18.30. Una mostra dedicata a Mirella Scott Sbisada, al titolo Ricordando la maestra del segno, si aprirà all'Università Popolare di Trieste, in rassegna una serie di acqueforti realizzate dall'artista nel periodo centrale della sua creatività, alle 19. La scuola media De Ganuti di Perteole, sotto la guida di Erika Rossi, ha realizzato un filmato che verrà premiato nell'ambito di Cinebike Shorts Educational, concorso nazionale di cortometraggi realizzati nell'ambito della formazione cinematografica. Un corto di 10 minuti dedicato a una gita scolastica in bicicletta, la cerimonia di premiazione alle 18 nel Salone d'Onore del Comune di Palmanova. In occasione della 21esima edizione del Festival Internazionale della Storia e Storia, ospitato a Gorizia e Nova Gorizia, capitali europee della cultura transfrontaliera, lo speciale di Rai Cultura, I confini della storia, in onda stasera alle 21.10 in prima visione su Rai Storia, farà rivivere attraverso le parole di alcuni dei più illustri storici e storiche italiani il rapporto simbiotico tra le due città, storicamente e culturalmente interconnesse nonostante il confine fisico che le ha divise per anni. A seguire, Oltre il confine, Nova Gorizia, Gorizia 2025 di Katie Ricciardi con la regia di Antonio Carbone per la serie Italia, viaggio nella bellezza, che racconta le due città e un territorio lungo conteso e di frontiera dove l'Isonzo scorre veloce, la storia si mescola alla vita e il passato al presente, città a lungo divise che insieme hanno conquistato il titolo di capitale europea della cultura nel 2025. E prima di chiudere, una notizia di sport arrivata poco fa, basket, la Gesteco Cividale annuncia la firma di Deshaun Freeman, centro statunitense di 201 cm per 102 kg, il centro classe 94, nativo di Rocky Mount in North Carolina, è reduce da due stagioni in casacca Fortitudo Bologna. Nella scorsa stagione regolare ha mantenuto una media di 14,5 punti con 8,3 rimbalzi e un assist a partita. E alle 12.57 minuti si chiude qui questa seconda edizione del giornale radio del Friuli Venezia Giulia, che è stata redatta e condotta da Maria Spezia e Giorgio Bearz, che vi parla, con la collaborazione tecnica di Marco Ferrito e di Mauro Ceccarelli. Ha collaborato in redazione Laura Sarasini. Prossimo appuntamento con il GR alle 15. A tutti l'augurio di un buon proseguimento di giornata. Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.